giochi da macchina, noi stiamo per il momento la quarta, capo, lo vedi che non mi la di più, solo che non gliel'ho detto perché magari si offende, capito? Quindi non gli ho detto nulla. Ha fatto sasso di musulora tutto in tempo. A posto stiamo via, allora quello era negato per guidare. Vabbè dai, io signori belli, vi ringrazio per la chiacchierata e chiudo, dai, ci sentiamo. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, alle prossime se capita l'occasione. Ciao Antonio e ciao Natalino, riprendi Antonio, ascolto Finalino di tutti e poi chiudo, vai. Antonio ha già chiuso, dai, ciao Giulio, riprendo io, ciao, ci sentiamo, stai bene e buona serata, dai, avanti Natalino. Ciao Giulio, ti ringrazio per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, avanti Gianni. Eia, beh, sempre studiando te la... Eia, per forza, bisogna studiare. Oiaia, cura noi, guess. Ai c'è dammi, dopo che studiare. Gira, manda a fangua. Che ho pagato, gatta, ho già mandato la raccomandata. Sennò avevo mullato tutto. Ah, cosa, Natalia, ti è sempre piaciuto, adesso che c'è l'occasione te la prendi e basta la patente. Ti è sempre piaciuto ascoltare, fare i radioamatori, quindi hai avuto sempre la passione di fare contest, quello, quell'altro, quello delle ferrovie, quello. Io li ho visti tutti, io me li ricordo appesi al muro davanti, come se fosse oggi. Sì, già lo so, io facevo attività, mi costruivo le antenne, insomma. Qualcosa la faccio, perché non ce l'ho il dipolo di 20 metri, me lo ce l'ho qua, mi fatto. E puoi ascoltare i 40 metri anche con quello. E ho fatto un dipolo per i 20 metri e ce l'ho piazzato qua. Ma l'hai piazzato su? No, non è su, è a livello della finestra, ma già funziona. Beh certo, il dipolo funziona sempre. Adesso le giornate, i giorni si avvicinano, dai, fra poco vi tocca dare l'esame. Sì, a novembre l'esame. Avevamo fino al 30 settembre per mandare la raccomandata con tutti i documenti, tutta la cosa che volevano. E io l'ho già mandata oggi, mi ho finito di fare tutto. L'ho inviata, domani parte quella raccomandata e via. Cava, vabbè. E magari dai, questa volta ti va bene e ti appassioni ancora di più. Sì, bisogna vedere se mi va bene, se me ne danno o non me ne danno. E quello è il discorso, se non me la danno vorrà dire che rinuncio. E a questa età mia ho 65 anni, Gianni. Quanti anni hai? 65. E allora? Antonio Lucifero, quanti anni c'ha? Più o meno di me. Antonio Lucifero è più. Antonello Lucifero è più grande di me. Io gli ho fatti oggi 65. Auguri allora. Almeno 70 c'è di Antonello, vero? Sì, buoni. Sono da molto che non lo vedo adesso. Una volta che eravamo a un funerale, praticamente l'ho invitato al mare, non ci è voluto venire perché c'è che non si parlava con quello del mare di Viale Sicilia, non ci è voluto venire. Io ho capito. Sempre allerta e sta lavorando sempre. No, sta lavorando, lo vedevo sempre in giro quando uscivo, adesso sono da molto, mi ho preso anche il Covid e mi è durato più di un mese, questo cavolo del Covid, quindi non stavo uscendo e non l'ho più visto. Quanto più di un mese? Grazie. Solitamente passavano una settimana e non ho avuto miei figli, una settimana gli è passata. Questo male, ma a mia moglie l'ha presa addirittura male, proprio male. Un mese è durato, sempre positivi erano, tutte e due. Cosa vuoi ti dire? Sono stati fortunati che gli è durato una settimana solo, ma mi stava dicendo quella dottoressa che dura così adesso, dura un bel. Emanuela ci aveva L'altro giorno era invitata a pranzo, cioè aveva la tosse, è uscita di notte, aveva la tosse e mi ha detto che non sapeva se veniva perché aveva paura di avere il Covid. Ho detto, Emanuele, ma tu l'hai già passato il Covid, cosa? Vieni tranquilla. Ho detto, prenditi un po' di miele, un po' di sciroppo, se ce l'hai, prendo lo sciroppo. Ha preso lo sciroppo, non ha avuto più la tosse, aveva bisogno qualche colpo d'aria, qualche cosa, ed è passato subito. Sì, infatti, ma poi basta che si faccia il tampone uno per essere sicuro che non ce l'abbia, si fa il tampone e via, e lo sa se ce l'ha. E lo so, ma era di domenica, il tampone dove lo midi, non sapevo manco dove andare a prenderlo, magari c'era la farmacia di Turo sicuramente, però lì ha visto che è passata e mi ha detto papà qua non c'ho più tosse, allora era un colpo d'aria, lascia perdere, se fosse stato Covid avrebbe continuato, era un colpo d'aria sicuramente. Adesso devo fare la risonanza magnetica io, Nazari. Mamma mia, armati di santa pazienza, già, ma che fea. Quanto dura? Mezz'ora. Ma Gesù Cristo mio, devi che affermo vemo, cazzo, senti i suoni di ogni agarità, Gesù, è un bel fastidioso. Perché a Leosa non abbiamo trovato nulla, adesso devono fare vaccino più anche. Vediamo un po' se trovano qualche cosa, perché dice che non c'è nulla a Leosa. E fatti la va, cosa vuoi ti dia? Quindi già lo sai come la risonanza. La riscoprono tutto e non vengono da di là. Già lo so, ma bisogna vedere se ce n'è qua a Sassari adesso. Oggi ho cercato mattina e sera, non ho trovato un attimo libero il telefono al cupo. Infatti. Allora di magna, o a Luttu, devi dire che comincia a telefonare, se no è sempre occupato. E così faccio, come ho fatto l'altra volta, ho telefonato alle 8 dell'era. Centro dove c'è la Conad, un centro per fare solo risonanze magnetiche, magari ha visto che c'erano difficoltà, dice che così faccio i soldi, capito? Qui la sosta vi dice non so prendere più nessun tipo di esame, ti mandano pure un casino. Lo so, ma ci sono i privati che lo fanno, c'è lui, c'è quello, come si chiama, che adesso è morto, quello di Viale Trento, di Via Gorizia, su. E vabbè, a chi bisogna andare, o a pagamento oppure da quei privati che sono convenzionati, sempre che te lo facciano fare da convenzionati. Sì, c'ho la convenzione. Cosa ti stavo dicendo? Praticamente io non è che posso aspettare, sono addolori fortissimi, la notte non riesco a dormire, sono mesi che non dormo di notte, immaginati tu. Solo qualche volta, adesso mi ha dato l'inizio di voltare nei muscoli, le sto facendo quelle per vedere se un po' mi passa. Sembra che oggi sia alleviato il dolore, ho fatto quell'iniezione, ho preso il gastroprotettore, prima ho fatto quell'iniezione lì e sembra che un po' mi abbia calato il dolore. E infatti, speriamo che ti cali, perché già lo so come eri, l'altra volta eri messo male lo stesso, e duro la ride è passato prima di operarti, già lo so già, lui ha. Ma per me è la stessa cosa, per me ho la stessa cosa dell'altra volta, non è possibile, perché il dolore mi viene dall'inguine, poi mi va tutto quanto attorno alla testa del femore, capito? Tutto attorno. E poi mi prende anche il ginocchio il dolore. E tutta la cartilagine si deve essere consumata. E non so cosa andare a dire a Giaudu Aedu. Cosa? Sono andato al Ghero l'altro giorno e non ho trovato il mio principale. Ma Felix o l'altro? Felix. Miau. Bussati di Drullio. Infatti, Felix. A te la metti a lui per dire miau. Io quando ci chiamava lo facevamo. Marcello era bastardo, che si metteva dietro le cataste. Marcello, dove sei? Felix, miau! e tutti ridiano, che ho preso, e tu non intendi che era lontano. E non è quello, non è il lavoro che mi ha tutto messo male, e gli sforzi che ho fatto, tirare di pedane, prendi, ui. Camicia mi dà, tirami da giovane, hai compreso già? Quando fai lo spavaldo, che fai stravizi, questo e quell'altro, è da buon fisico di domandare un conto, come ti direi domandando, perché tu ti sei affaticato troppo. Se mi ricordo le risposte che ho fatto, lo voglio pensare. Ui, ui. Anche i frigoriferi, quelli grandi, quelli lunghi lunghi, a caricare sul camion senza pedana, così, con una busta di lomo. E allora, e dico, ma te se si vedono da 200 litri, mi, cazzo, mi riugravo, li scaricavo senza pedana addirittura. Ma proprio sempre un autista mi diceva, già pidali a uno a uno, ricordi che non stai a tenere un brivido, metti da voi un fisico di domanda a un conto, ma ne ammetto sempre, quando faccio le domande mi ammetto sempre di chi c'è che mi dizia, è buono tu me lo dizissi, non ricordo bene. Ehi, perché così? Noi guardiamo troppo gli spavaldi e siamo ridotti così, paghi sul motivo. Spavaldi, quando ti faccio mandare con 10 pedane da solo a scaricartele a mano, non lo so io. Cosa potevo fare? Se li chiede fa avanti di dire si vogliono i carabinieri. E a me lo dico. Già me lo ricordo tutto quello che ti faceva fare. Con il disgraziato, questo è un delinquente. Già ne ho passato lì, 38 anni di sofferenze, E non so pochi. Non so pochi no, nessuno avrebbe resistito lì. Quanti colleghi, uno gli ha sbattuto le chiavi e gli ha detto i tempi degli schiavi sono finiti, arrivederci e grazie, se ne è andato. Forza, quando si vede idratando così uno, è logico che si gira amaramente già. Ha lasciato un camion carico di tutto, e ho detto vai Gianni, porta quella merce dove la deve portare, chiedi dove deve essere portata, vai tu, gliela porti tu, e che lui c'è, però sai cosa gli ha fatto? Ha telefonato, siccome lui aveva trovato un posto alle poste, a timbrare, no, non un posto diciamo di coso, però a timbrare le lettere, mettersi francobolli, no, eccetera, faceva questo lavoro. E l'avevano preso in prova, hanno telefonato a lui, al principale, gli hanno detto come lavora, mi ha detto, non lo prendete che è un mandrone. E non hanno imbigliato, non avevo incattato lì. Ehi, così fanno? E ha detto che era un mandrone, che era un nulla facente, che tirava le cose alle lunghe, eccetera, eccetera. E non l'hanno preso, non l'hanno confermato il posto, te l'immagini. C'è un posto buono, ci aveva, capito? Purtroppo visto là, hanno chiesto referenze a quello lì, e chi te l'ha detto che era mandrone? Vabbè, di cazzo. Ehi, a Roma mi ha detto che li vogliamo lì rimane in alto. Questa gente è quella che va sempre avanti. Intanto lui era Bassigendi, ero sposato della banchina con la stampella all'Alghero. E mi ha detto cosa è in girella? In girella cosa? Non lo vedi come sono, gli ho detto, non riesco manco a muovermi, dagli sforzi che ho fatto è questo qua. E lui ha alzato le mani, come dire, non c'entro nulla. Mi ha dato che prima o poi la maga. Loro pensano solo ai soldi, capito? Di quello che fanno fare a te, ti sfruttano, e i soldi che ti danno ti rimasi di travaglio a tre voci. La verità, io l'ho pagato bene, però che già me li lavoravo i soldi. Ma i soldi me li lavoravo, me li mangiava poco di travaglio, non avevo orario, allora di andarmene a volte c'è da andare a Cagliari a fare un viaggio. Devi andare a prendere alla costa, al chilometro, non so cosa, vivi a Santa Vendracci, cazzo, a prendere i frigoriferi. E allora mangia a Tranguglione, così un panino, andando e via. A voi tornato da Cagliari mi sta mandando a Stintino e siamo stati sino a mezzanotte e mezzo pensando al frigorifero. Io già me l'avevo raccontato a questa storia. E tra l'altro c'era il camion che era senza nafta. E mi sono fermato, c'era uno che stava dormendo dentro il camion, e ho detto ascolti, non è che c'è un po' di nafta da darvi, per almeno arrivare a un rifornitore perché mi sta finendo. Mi ha detto guarda, io ne ho un bidone solo, non ti posso posso dare nulla perché serve a me. E mi ha detto, mi dispiace. E vabbè, sono arrivato, mi ha detto, comunque qua sotto c'è un rifornitore, vai lì. E mi pareva più 20 euro in busciacca, non mi aveva regalato manco di nato. Ho messo 20 euro di gasolio e nelle discese folleggiavo, sono arrivata a riserva fissa tutto dopo. Io me lo posso immaginare. E ci dà giù il matto, mamma mia, per carità, non ci voglio pensare. Tutti quanti diciamo hanno avuto allora di ritornare a casa, mi diceva stasera devi andare un lunedì, ma è un lunedì sera che dovevo andare a prendere la verdura al Mercatali Grosso e poi andare a Santa Teresa a portargliela. E ho detto guarda che oggi è lunedì, sono nel riposo io lunedì e devo andare a fare una visita che ho prenotato già da 3 mesi. Ma sei sicuro? Ho detto sì. E fai una cosa, dai la disdetta, sì, all'una do la disdetta. E mi ha detto, sei sicuro quello che stai facendo? Io ho detto certo che sono sicuro, io me ne vado, non ci vado. Manda qualcun altro che sta lavorando e io sono a riposo. E non sai cosa mi ha fatto come rispetto, mi ha fatto della maglia di domenica a Santa Teresa, di solito chi lavora a Santa Teresa lavora la mattina e poi se ne va. Mi ha fatto la maglia in un negozio di Santa Teresa la mattina, nell'altro negozio di Santa Teresa la sera. Era un bastardo, era già rende contro a Dio lui pure, non ti preoccupare, che su che ha fatto a te non viene intanto. Sì, vabbè, acqua passata, bene, non ci pensi, se no lavoro di nuovo. Ohia, senti via Giava. Non me ne dimentico certe cose, perché non me le dimentico, ma ci passo sopra, mi scivolano adesso. E infatti, meglio così, sorvoliamo, che è meglio. E adesso di nuovo sono così, Natali, solo con questa gamba devo usare sempre la stampella, quando sono in casa mi devo aggrappare ai mobili, se mi devo inchinare è una profezia farlo, inchinarti, perché non puoi, non ce la fai, perché l'acqua è diventata di legno. Io me lo posso immaginare, già lo so cosa avevi passato l'altra volta per l'altra gamba, prima di operarti. Tutti a te capiteggiano in gas. E a me che non mi arriva sangue a una gamba, che ogni pochi metri mi rimuove male. Allora cosa vuol dire? Dolori allucinanti. Come te li dovi? Io per descriverti i miei dolori, tu pensa quando sei fratturato e non sei ingessato, i dolori che c'è la notte, peggio, ancora peggio, perché sembra che mi stiano stritolando l'osso, dolori ma forti, mi sveglio, una volta sono addormentato e mi sveglio i dolori e poi non riesco più a dormire tutta la notte. È una cosa, poi non posso stare sempre con questi antidolorifici che fanno male, anche se prendo il gastroprotettore, anche il gastroprotettore è una pastiglia e non è che ti facciano bene allo stomaco queste cose. E quello gli è poco ma sicuro, e purtroppo è un casino. Io lo stesso mi devo operare, perché se non mi opero, diciamo, se mi opero guarisco, perché dice che la gamba torna come era. Si chiama la malattia della vetrina. Praticamente ne abbiamo che mette di prima, come se fa bendare i vetrini. Ma ti viene un dolore allucinante. La malattia delle vetrine, ma sentita la prima questa cosa. Ma Natali, se è da fare fatelo, così almeno non vi messi più. Avessi saputo io che cosa è di sicuro. A Chiriso mi ha visitato l'ortopedico e mi ha detto guardi, qua nelle ossa non c'è niente, qualche cosa ci sarà perché qualche cosa c'è se ha dolori. Non è niente di bello, mi ha detto. Se c'è non è niente di bello. Infatti, a me l'hanno fatto vedere in televisione, l'hanno fatto vedere, io lo so per quello, e mi devono fare praticamente un'angioplastica, come hanno fatto per il cuore, no? Invece di farmela al cuore me la fanno alla gamba, mi sostruiscono l'arteria e la gamba torna normale, anche se no non puoi camminare già, non puoi camminare. e tu decidi ti lascia il flash a settembre, vai, ti fai controllare e glielo dici che ti vuoi fare l'operazione, buonanotte. E prima mi faccio l'ecodoppler, così gli porto già l'ecodoppler pronto. E poi parlerò con qualche chirurgo e vediamo un po' se mi operano. Lo guarderanno in angiografia a San Pietro, lo faranno quello lì, no? Dovrebbe essere così. Perché quelle operazioni al cuore le fanno in cardiologia, però quella alla gamba penso che la facciano in angiografia. Ne portavo tanti di malati lì. In angiografia gli facevano quel lavoretto. Angiografia digitale. Ehi, in chimica, ti entrano una sonda praticamente e disostruiscono l'arteria ostruita, perché c'è un'arteria ostruita, non mi arriva sangue alla gamba. Quindi la parte la senti fredda anche? No, niente. Ti viene il dolore e basta, non ne ho dolori di altro genere. Quando cammino che la sforzo la gamba, allora subito mi fate che sono difetto. Oh, yeah. Avevo questo difetto nel microfono l'altro giorno ed era la batteria che c'aveva 4 volts, l'ho misurata col tester e io stavo impazzendo. Se no non puoi stare così, non si può stare. Oggi mi da Biasorso a qua mi sono dovuto sedere, mi sono fermato lì vicino alla fermata del tram, qua vicino mi sono seduto 5 minuti perché qua era cominciando a farmi male. Da Biasorso mi dovevo posteggiare la macchina, a qua ti viene il dolore, lì non sono tanti metri. Natali, io non mi ero mai abbracciato in palo, ma mi abbraccio in bari, quando non vi lavo più mi attacco al palo e me l'abbraccio, perché mi devo fermare e non ce la faccio a camminare, a continuare. No, ma con la tisola funziona! Quella funziona, sorelle buone c'hai, eh? Si immaginate a quest'Antonio, eh? Funziona. A voglia. Sicuri sempre. Cazzo, guardo una cara di gnocchio, cazzo, viale, bruchissimo. E tocca a secco i nocchi. È un casino, eh. E adesso già lo dico a Sara per vedere se funziona. Già mi dice la verità a me. Sara! Ehi! Funziona? Che cosa? Che cosa? Se non funziona Antonio, vai. Allora ho detto, vedi se funziona. Io perché... Ma te glielo dico io. A Marta ha funzionato, poi non lo so. Non è vero, non è vero. Non è vero niente. Cioè, ha funzionato, è vero che accade a marzo, giusto? Ma già funziona ancora però. Oh! Ha funzionato ancora. Già hai visto. E già hai vista. E saremo alla notte. Antonio a secco. Antonio, fai la brava. Oh Sara, ma non è che se li è incantata, no? No, è canta brutta e no, che no. Eia! No, è canta brutta e no, che no. Che sei giovane tu, poi non sai cosa fai, se te la puoi conservare ti metti un barattolo di cilio, come la natura crea cilio conserva. Ah, un ragazzo conserva. Ah, è una giuria dai tau, anche se no non la c'ha più. Non esagerare. Vabbè dai, lasciamo perdere che Antonio poi viene la casa. Mi siamo mari. Grazie a Dio, ancora già pompa voce, già mi lavoro, così è Antonio. È solo che no, che è un casino, vabbè. Puppetto, vede, è un casino, comunque non può censurare, perché anche molti dicono non è così, non è così, perché io mi sono informato, quando va la bambina liquido, come ti si chiama, non devi ducarla, perché può farle male, capito? Antu, e cosa vuoi fare? Purtroppo, e quando nasce il bizzino, chi non dorme la notte, ui, e alla bigliona, già tirai molto il bizzino in fresco. Ma poi come ti nasce il bizzino, stai sempre con il bizzino e non lo caccoleggia. vabbè, bisogna dare attenzione perché è piccolino, devi stare attento come ti si gira, tutti quanti che si gorgi, provare un rigurgito, cioè devi stare attento a me il bambino, non è così, no. Vedo tutti quanti che si brecca un zio da dinimmi. Sì, lo sappiamo noi non lo sappiamo. Certo. Vabbè, da tempo. A fargli che cicche. Non c'è problema, anzi poi ti do un consiglio. Io già li so con tutti i miei. Se vuoi parlare parliamo lo stesso, ma già li so con tutti i canti che si cose. Sì, vabbè, in verticale ne parliamo, tanto fra poco veniamo a portare la bomba. Gaba. Avanti Natali, quest'antura, te l'immagini. A secco. Però già funzionando via. Già per Gabriele Trento, quindi già funzionando. Dimmo così che ti sei dormito tu. Ti sei dormito e ti ha fottito. Non sei stato attento. No, io so qua, guarda che io anzi non posso dire se mi drummiddo perché sono, non è che sono contento, no? Cazzo faccio 37 anni, quando me la giudi va, cosa mi già ma no, il subizzino, me la giudi va, va a me. Cioè, cazzo quando me la va, quando sono ancora più manno, cazzo no, è che magari non si può via a nulla, è la giusta età, cioè. Anzi, aspettato anche troppo. Già è vero, i figli si fanno da giovani, già è vero. Se no non te li godi, capito l'hai, Anto, è così. Sì, anzi, aspettato già troppo, è l'età giusta, Cazzagano, quando non li si rubia nulla. Così, andiamo, c'è l'età giusta, ci abbiamo provato, riprovato, la verità, ho vinto io e via, capito, quindi hai fatto l'istraordinario. Sì. Magari nascono due gemellini, così ti fanno contento, ne hai due, non mi piace più. No, grazie, mi deve cannare lupo, no, che io me la più umana la casa, se vuoi. Già lo so, no, adesso no, è uno, ce l'avrebbero già detto. Già 7 mesi mi ho già, non ce l'avrebbero già comunicato. E uno è maschietto, e andava, poi abbiamo scoperto che è sanissimo, perché siamo diversi di sangue, capito? E noi siamo contenti, siamo. Adesso non vedo l'ora che lui esca da lì e festeggiamo, capito? Non lo metti in dubbio che siete contenti, già lo grido. Certo, così festeggiate e ci avete il pupillo che vi fa compagnia, anche se sono sacrifici, va, si fanno, va. Cioè, a te lo dici? Purtroppo è così, bisogna fare sacrifici, bisogna travagliare, bisogna fare eccetera eccetera, e cosa fai? Pesanti, come te andassi pesante lo bizzino. Un bel di visite hanno fatto. E poi quando c'è caldo si gonfiano i piedi, io sono tutto quanto, perché ne ho avuto due di figli, quindi, non io, mia moglie. Però già lo so come. E senza drumica ti lo ti sono gustato, mamma mia, non drumia né uno né l'altro. Già lo so già. No, noi cioè basta questo e basta, lo teniamo bene, lo teniamo. Faccio di tutto per farlo crescere bene. E via. Tieni ma è debù. Perché ha un altro non si può fare, perché non siamo in periodo di vannuda. Vabbè, ma una compagnia ci vuole. Tu pensa che Emanuela un anno ha scritto Gesù Bambino quando era piccola, le abbiamo detto che cosa voleva, ha scritto la lettera a Gesù Bambino, ha scritto Gesù Bambino per quest'anno non mi portare giocattoli, io voglio solo un fratellino. Succede. Purtroppo, sicuramente uno solo ne possiamo fare e basta. Sì, no. Due sono già pigianti. È di culo questo. Perché anche lei ha 38 anni, quindi. Tanto ci è andato di culo, ci è andata, va. E boh, ci teniamo a lui e basta. Pelovi, Lucrezia, va. Vabbè, Gigio. Ciao ragazzi, ciao. Vabbè Gianni, intanto mi vedi in live, eh? Tu non puoi salire perché c'hai 1000 follow, ma non c'hai 1000 follower. Sì, lo so, ma io passo così, mi faccio un giro, non è che mi interessa fermarmi. Mi sono fermato perché ho visto a voi, se no non è che mi fermo più di tanto, se non è che c'è qualche cosa che mi interessa, allora già mi fermo. Ma io vado più su Starmacher, capito? Lì già vado bene. E tra l'altro su Facebook mi hanno dato il premio per il più frequentatore più assiduo. Ah, lo dico. Roba. Mi sono passato lì all'emiciclo. Mi sono preso due pizzate da cocco. Cocco de. E come le ordinate, Luca? Tramite computer? No. No, però dopo una commissione, poi volta sono salito lì in... mi sono seduto vicino alla Piazza d'Italia, poi l'ho fatto a piedi, ho fatto l'emiciclo, ho preso le pizzette e mi sono preso il tram di nuovo e sono andato a casa. Non ho ordinato niente, ma quando puoi chiamare, te le portano a casa. No, io ho chiamato una volta e mi ha detto che prendevano gli ordini solo dal computer, solo su internet. Vabbè, comunque io già ce l'ho sotto casa, mi fa le pizzette che sono così buone, sembrano quelle di Via Grazialetta di... che c'è su, la pizzeria di sopra da... come si chiama? Ma da Pudiche. Però mi pare che tu, qualche giorno le provo. Ok, la devo lasciare, vedevo. Ciao a tutti. Anzi, per la cronaca, se la giovedì, poi venerdì, sabato e domenica non ne fanno pizzette. Allora, bisogna provarle prima. Ok. Dai, ci sentiamo. Ciao, io devo uscire un attimino. Ehi, ciao, saluta la tua consorte. Ciao. Ciao Bomboli, saluta Sara, Emily, ciao. Ciao Bombolo, salutami a Sara. Io pure le avrei volute provare a quella signorina che c'è da Pudi, che lì. No, quelle che ci sono sotto casa, ragazzi, fanno le pizze al taglio, sino a giovedì fanno le pizze al taglio, 1,80 costano, ma sono buone, belle croccanti, buone volte. Ma io voglio provarle a quella signorina. Non c'è Stefania che taglia le pizze lì. Che signorina c'è? La figlia? No, quella tettona che c'era lì. Non l'ho mai vista. Fidati. Adesso c'è solo un anno che non passo più da chi si imbastica. Ma sei un po' ma ti credo. Hai drogato. È buono. Ho mollato. Medusa. Perché le fa buone qua, quindi. Sì, anch'io lo so. Di io. Allora. Un po' di che le fa perché sono croccanti. Queste qua di cocco sono buone, ma sono un po' morbide. A me mi piacciono più croccanti. E invece ho fatto la pista l'altro giorno, perché qua erano chiusi di domenica, l'ho fatta in via Baldesa, da Samuel Joe, quindi che era prima da Samuel Joe, adesso non mi ricordo come si chiama. L'ha fatta fino a fine la pasta, sembrava che già di butti su di mare Carasau, secca, così, a me non mi piace, così. Né molle molle né secca, non mi piace. Ad Alghero invece abbiamo preso la pizza al tavolino lì, nella pizzeria, e la fate di moda come ti cingomma, schifosa, non si li può dire a mangiare. Io ne prendo da Savigliole. Ma Savino certe cose non le fa, come la voglio io, tipo frutti di mare freschi, roba così, non le fa. Non lo so, io prendo la quattro stagioni sempre. Ragazzi, l'ha detto già, guardati menù, guardati volantino, cercalo su Google e poi lo vedi, c'è la pizza con le cozze e vongole fresche col sugo agliato che faccio io, capito? Ah, boh, non lo sapevo, vabbè. Guarda, io la pizza con i frutti di mare l'ho mangiata buona solo a Porto Torres, alla pizzeria San Gavino. La faccio con la zuppetta, di mare, ma è così buona, io da lì non mi muovo, non ne prendo altre. Che ci abbiamo dei clienti nuovi acquisiti perché hanno conosciuto questa pizza che si chiama 3S ed è con cozze e vongole veraci fresche e boh, da giorno non sono più spostati e quando vado in ordine sempre in mezzo vega che 3S, capito? È una pizza particolare, poi a crudo sopra li metto appena di prezzemolo, poco, dopo che come esce la margherita dal forno ci vanno messi sopra il condimento, capito? È ottima, ottima. Vabbè, dai, già vi sto ascoltando. Luca, a vero sei tu? Beh, arrivaccia lunga, sperando che tu mi accopi, frate. Sei a vero, è a carino. In mezzo alla propagazione, sì, capito, Santiago 1, Radio 8. A me mi ascolti, Saverio, mi ascolti a me? Porta e chiasso, porta e chiasso. Siete tutti furti, non ci sono problemi. Adesso vado da Fabio, un amico mio, sotto casa tua. Va, mi posso va. Cioè prendiamo poi qualche pizzetta al taglio. Ehi, sono buone. Perché voi non le fate al taglio? Negativo. E dove le mettiamo? In che forno le mettiamo? Il forno che abbiamo rotante è solo per le pizze normali, le giganti. Capito? Ci vorrebbe un altro fornetto, un fornetto elettrico per fare le pizzette al taglio. Ma non abbiamo spazio. Capito? Dai, vi ascolto. E allora vai giù da sotto casa che sono buone, sono buonissime. Da Fabio. Sì, io le prendo sempre lì. Comunque io un ricordo bello ce l'ho di tuo fratello che mi aveva fatto la pizza a Mari e Monti. Mi ricordo ancora quando era in quel paese, se non mi ricordo se era Florina, se non mi ricordo dove era andato. E aveva fatto questa pizza a Mari e Monti che mi era piaciuta un bel. E la facciamo sempre. E non si chiama più Mari e Monti, ma si chiama La Sergio. Ed è calamari in verde trifolati, fatti in tegame, taglio prezzemolo, vino bianco. E poi antunna fatti al forno e mettiamo nella pizza, mettiamo le antunne e il calamaro in verde e si chiama La Sergio ed è ultima. Quella era molto buona, io l'ho mangiata, dove era Florina se mi pare, no, era vicino a Florina se mi pare, siamo andati con Capri 2, siamo andati a mangiare la pizza lì. No, non mi sembra, era proprio a Florina, si chiamava La Cantina. Avevo mangiato quella pizza, era molto buona, mi era piaciuta molto. C'ero anch'io. Anche tu c'eri stata lì? È all'ombra di un verde albero. No, non me lo, io sono sventiata, scusami. Io mi ricordo di Capri 2, però non mi ricordo di altri, chi c'era? A Catalago. Catalago. Catalago. Sabe, ma con le pene sì. Perché voi la portate subito? Ma veda tranquillo e dopo la moglie la portate, se fate a metà così. A San Video gli ho detto, sei in fede, eh. Salvidio, chi è che lo chiamava, che la chiamava Salvidio? E boh, ragazzi in a mente. E c'è Salvidio, putti, che già ha preso camminata davanti. Cappa. Salvidio, beh, questa creaturetta come sta andando? Non parla più Salvidio. Ah, ma sarà lì endi ammi, sarà lì endi. Era passendo un palamito, era passendo. E dai, io adesso vado, dai, che ci porta a te, si sta lamentando già. Vado a portarlo giù, dai. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene, mi ha fatto piacere questo QSO. Ogni tanto entrate, perché ogni tanto io accendo ma non ve mai nessuno. Entrate, entrate, entrate. Andà bene Meda, io già ci sono sempre, o quasi. Perché poi se sentono gente entrano anche gli altri, se no se non tende nessuno ti accende nessuno della bocca. E infatti, molte volte io stavo ascoltando e sentivo solo il QRM, mai io, per posto dopo spegni. E poi pensi 1, 2, 3, 4, 5, 6 apparati va nuda. E infatti, manco male va giù su Rughiccia, vai, non gli è boh. No, io già ce li ho perché mi sono rimasti da prima e ce li ho, però prima c'era il tanto, la accendevi uno, accendevi l'altro, se andava male uno ci avevi l'altro, ma adesso non c'è più questo problema, capito? Infatti, vabbè, là, ti saluto già, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, avanti Luca. Ciao a tutti, dai, ciao, io mangio, c'ho fame, alla prossima, ciao, Salvedio, vabbè, già sono qua comunque, dai, salve, ti chiamo se vuoi chiamare, ciao. Io ce l'ho tutta la sera acceso il baraccino, ce l'ho acceso che ancora non c'era nessuno, poi è cominciato piano piano, è entrato Gianni e Giulio, Dollaro, io ero sempre quel Rix ascolto, capito? Ho ascoltato tutto il questo, chiunque sia entrato, c'era la portante, c'era tutto il bombolino, poi c'era uno che prima era in barra mobile, non so dove era, boh, neanche chi era, ha fatto poi i passaggi. Sono tutta la sera in ascolto, sto legando ami, palamito. Stanotte devi uscire? No, negativo, sto preparando così e pronto a innescare. Sono uscito giovedì notte, sono fatto venerdì mattina. A me come è andato? Discretamente, con la ventina di pesce. Andata bene. Ma lo vedi tutto, sì? No, è beneficenza, lo do, ma la carità c'ho di beneficenza. No, dico, quando è così tanto, lo vedi tutto, non mi è capito la domanda. Che lo vedi lo so, ma dico, quando è così tanto, riesci a venderlo tutto, mi quello ti volevo dire. Sì, sì, non c'è un problema. Pensa che a Ferragosto lo stesso ho buttato un parametro l'ultimo giorno che mi ho fatto di campeggio, sono andato in un ristorante, me l'ho venduto e con quei soldi mi ho fatto i 4 giorni pagati, spesati. Già va bene, dai. Già andava bene. Beh, se poi c'è la passione, a me mi piace più andare con la canna, la verità, io sono andato anche in barca, ho preso pizzoli anche grosse, però non mi piace la pesca con le canne elettriche, mi piace la pesca normale. È manuale, certo, si conferma. Il paletto lo coraccio, è pesantino, non è un gioco, no. Se non sei su denti tutto canto lo bescio. Il mare consuma, è pesante come lavoro, Già ne sa qualcosa mio fratello. Sì, ma quello di tuo fratello è a livello professionale, cantani ami buoni niente. Sì, Ava è professionale, ma prima ha iniziato come sta facendo Saverio, prima era abusivo, burruendo. Gli anani bicadu mettevano chilometri di palamiti, loro si raggiappavano i guai. Ma se metti più di 70 anni mi pare che ti mettono la multa, se questa rottura. Non so se sono 70 o quanti sono, ma mi pare siano 70 al massimo. No, 200 sono. 200 sono già tanti, Già va bene. Sì, quando il dentro da becchi, poca roba. Il trucco sta a farne 2 o 3 di palamiti da 200, 199 ne devi mettere per essere sicuro e li butti. Ma che se no con un parametro solo fai bocca cosa, così mi era dicendo mi avrà detto. Se sei pusci già fischi anche così. Vabbè dai, vi lascio, ciao ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao. Savino, l'animaccia lunga. Lucariello, l'animaccia duria.